Biancaneve e Rosa Rossa. I fiocchi di neve turbinavano nel buio della sera e faceva un gran freddo, ma dentro la casetta, ai margini della foresta, ardeva un fuoco accogliente. Biancaneve e sua sorella Rosa Rossa, accoccolate vicino al camino, ascoltavano attente la mamma che raccontava loro una storia. All'improvviso si sentì bussare alla porta. «Chi mai può essere in una notte come questa?» esclamò Biancaneve. «Vado a vedere», disse Rosa Rossa. La bimba aprì la porta e subito cacciò un urlo. Un gigantesco orso nero torreggiava su di lei. «Non aver paura», la rassicurò l'orso, «non ti farò del male, voglio solo riscaldarmi un po' accanto al fuoco». «Povero orso», commentò la mamma, «perdona la mia figliola, entra e mettiti comodo». «Grazie», rispose l'orso. Si mise giù a quattro zampe e si scrollò la folta pelliccia, lasciando fiocchi di neve dappertutto. Biancaneve osservò nervosa quell'ingombrante creatura che andava ad accovacciarsi sul tappeto. Non aveva mai visto un orso. Sulle prime, le due sorelle si tennero a distanza, ma l'orso sembrava così innocuo che presto la paura se ne andò. Piano piano le bimbe gli si avvicinarono per osservarlo meglio. La bestia sollevò la testa assonnata. «Perché non vi sedete accanto a me?» mormorò. Le sorelle si inginocchiarono e gli accarezzarono la fitta pelliccia. L'orso grugnì contento. Un po' alla volta il grugnire si trasformò in russare. Biancaneve e Rosa Rossa si strinsero accanto all'orso e ben presto tutte e tre dormivano profondamente. La mattina seguente l'orso si diresse verso la foresta, lasciando gigantesche impronte sulla neve. «Tornerai, vero?» lo implorò Biancaneve, salutandolo con la mano. «Se mi volete», rispose lui voltandosi indietro. La sera dopo l'orso ritornò e anche quella successiva e per tanto tempo continuò a tornare ogni sera. Biancaneve e Rosa Rossa aspettavano sempre più con gioia le sue visite. Gli offrivano focaccine al miele, gli grattavano la pancia e giocavano a nascondino intorno a lui. In cambio, l'orso le portava in groppa e mostrava loro come costruire una tana. Ma il tempo passò in fretta, la neve si sciolse e una distesa di campanule si sparse per la foresta. Era arrivata la primavera. «Purtroppo me ne devo andare per un po'», annunciò l'orso una mattina. «Perché?» piagnucolò Biancaneve. «Ti abbiamo forse offeso?» «Certo che no», rispose lui. «Devo rimanere nella foresta a difendere il mio tesoro dai nani cattivi. D'inverno, quando il suolo è ghiacciato, se ne stanno rintanati nelle loro grotte, ma ora che è arrivata la primavera, vengono fuori e combinano un sacco di guai». Biancaneve e Rosa Rossa cercarono di fargli cambiare idea, ma nulla riuscì a persuadere il loro amico a restare. Nascondendo i visetti nella sua pelliccia, le ragazze lo abbracciarono stretto. «Ci mancherai», dissero. «Anche voi mi mancherete», rispose l'orso, «ma tornerò al più presto possibile». Le sorelle aprirono la porta e lui sgusciò fuori, ma nell'uscire si strappò un pezzetto di pelliccia sul chiavistello. A Biancaneve sembrò di intravedere un luccichio dorato, ma prima che potesse dire qualcosa, l'orso era scomparso nella foresta. Pochi giorni dopo, Biancaneve e Rosa Rossa andarono nella foresta a raccogliere la legna. Non avevano fatto molta strada quando notarono una strana creaturina che saltava su e giù in mezzo all'erba alta. Come si avvicinarono, capirono che si trattava di un nano. Aveva una lunga barba bianca ed era rosso di rabbia. «C'è qualcosa che non va?» chiese Rosa Rossa. «Certo che c'è qualcosa che non va!» scattò lui. «Non vedi che mi si è impigliata la barba?» Rosa Rossa allora si accorse che la barba del nano era rimasta aggrovigliata in un rovo. «Accidenti!» esclamò. «Com'è successo?» «Non ho il tempo di stare qui a rispondere alle tue sciocche domande!» brontolò lui. «Avanti, liberami!» Biancaneve e Rosa Rossa provarono a dare uno strattone alla barba, ma senza risultato. «Aspetta», disse Biancaneve, «mi è venuta un'idea». Mise la mano in tasca e tirò fuori le sue forbicine da cucito. Poi, zac, zac, tagliò via la punta della barba. «Stupida oca!» urlò il nano. «Guarda cosa hai fatto alla mia bella barba!» Biancaneve fece per rispondere, ma lui era già lì che rovistava sotto il cespuglio. Tirò fuori un sacco pieno d'oro e se lo gettò sulle spalle. Poi, boffonchiando e borbottando, si allontanò con passo irato. Qualche giorno dopo, Biancaneve e Rosarossa andarono al fiume per prendere qualche pesce per la cena. «Guarda laggiù», disse Rosarossa, «è di nuovo quel buffo omino». E difatti era proprio il nano, che balzava di qua e di là tra le canne come un ranocchio. Questa volta era riuscito a impigliarsi la barba nella sua lenza. «Oh no, ancora voi due», gemette quando le vide, «non portate altro che guai». Proprio in quel momento un pesce affamato ingoiò il vermetto che era legato all'estremità della lenza. Poi cercò di allontanarsi, trascinando il nano sul bordo dell'acqua. «Non state lì impalate come due sceme, fate qualcosa!» strillò l'omino. Biancaneve e Rosarossa si precipitarono a soccorrerlo, ma per quanto ci provassero non riuscivano a liberarlo. Di nuovo Biancaneve tirò fuori le forbicine e zac zac gli tagliò un altro pezzo di barba. «Ma perché l'hai fatto?» esplose lui. «Ora che me l'hai portata via tutta non potrò più farmi vedere in giro». Senza aggiungere un'altra parola estrasse dalle canne un sacco di perle e si allontanò indispettito. Qualche settimana dopo Biancaneve e Rosarossa si stavano recando in città quando videro un'aquila che volava bassa sui campi, compiendo larghi cerchi. Poi, di colpo, l'uccello si gettò impicchiata dietro una siepe. Le due ragazze sentirono un grido e corsero a vedere cosa stava succedendo. «Mollami!» strillò una voce irritata. Era di nuovo il nano. L'aquila lo aveva afferrato con gli artigli e stava per spiccare il volo. «Lascialo stare!» urlò coraggiosa Rosarossa. Ma l'aquila, per nulla intimidita, batté le possenti ali e sollevò l'omino dal suolo. Svelta, Rosarossa afferrò la minuscola giacca, mentre Biancaneve si aggrappò alla vita della sorella. L'aquila tirava da una parte e le ragazze dall'altra, trascinando il nano avanti e indietro. Dopo qualche minuto di tira e molla, l'aquila finalmente lasciò la presa e l'omino finì a terra. Brontolando rabbiosamente, il nano si rimise in piedi e si diede una spolverata. «Guardate com'è conciata la mia giacca!» si lamentò. «Imbranate! Dovreste stare più attente!» Poi raccolse un sacco pieno di gioielli da sotto la siepe e se ne andò incollerito. Biancaneve e Rosarossa si scambiarono un'occhiata e si strinsero nelle spalle. «Certe persone sono impossibili da accontentare!» commentò Rosarossa. Più tardi, quel pomeriggio, mentre tornavano a casa, le due sorelle si imbatterono di nuovo nel nano. Questa volta era inginocchiato a contare degli oggetti in terra. Cercò di nasconderli, ma non fece in tempo. Le due ragazze si fermarono a guardare. Sparsi di fronte a lui c'erano un'infinità di diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri che luccicavano e scintillavano al sole. «Che cosa avete da guardare?» urlò l'omino di malagrazia, sollevando un sasso per colpirle, ma proprio in quel momento sentì un cupo ruggito alle sue spalle. Allora si girò di scatto e vide un enorme orso nero che gli si dirigeva contro, digrignando minacciosamente i denti. Non c'era tempo per scappare e il nano dovette pensare in fretta. «Ti prego, signor orso, risparmiami!» lo supplicò. «Un piccolo esserino come me è un ben misero boccone per una bestia della tua mole. Prendi invece queste due ragazze, saranno un pasto assai più gustoso!» L'orso emise un grugnito feroce, alzò la zampa e colpì il nano con tutte le sue forze. Lui barcollò e cadde a terra stecchito. Biancaneve e Rosarossa fecero per correre via. «Aspettate, non abbiate paura!» gridò l'orso. «Non vi farò del male!» Le sorelle si fermarono di colpo. Avevano riconosciuto la sua voce. Piene di emozione, si voltarono per salutare il loro vecchio amico. Ma l'orso era sparito. Al suo posto c'era uno splendido giovane in abiti eleganti. «E tu chi sei?» chiese sbalordita Biancaneve. «Sono un principe!» rispose lui. Quel nano malvagio mi aveva stregato e aveva rubato tutti i tesori di mio padre. Per più di un anno ho dovuto girovagare per la foresta sotto forma di orso. Solo la sua morte poteva liberarmi e ora l'incantesimo si è finalmente spezzato. Biancaneve abbassò triste il capo. Qualcosa non va, le chiese il principe. Pensavo che saresti stata contenta per me. Lo sono, replicò la ragazza. È che mi mancherà il nostro amico orso. Ma dentro sono lo stesso di prima, spiegò lui, e spero che diventerò tuo amico anch'io. Biancaneve sorrise. Lo sei già, rispose. E difatti i due divennero ben più di semplici amici. Si innamorarono e pochi anni dopo si sposarono nel palazzo reale. Dato che le due sorelle erano sempre state inseparabili, non vi stupirà sapere che Rosa Rossa sposò il fratello del principe e che, naturalmente, vissero tutti felici e contenti.